incontro in prefettura, il prefetto, abbiamo ricostruito tutta la vicenda della Bariambu da quando era previsto l'arrivo a Genova, e si è reso subito evidente che le informazioni che avevamo all'inizio, ovvero che la nave non avrebbe caricato nessun tipo di materiale bellico o comunque militare, erano informazioni non complete, diciamo quantomeno parziali, perché poi a un sopralluogo fatto dai lavoratori dipendenti diretti di quelle aree portuali erano emersi alcuni colli che erano prodotti da una società italiana che ha un contratto di appalto con la NATO, quindi con una produzione che non ha sicuramente scopi civili, insomma, ma scopi militari. Il prefetto ha preso atto che questo effettivamente era un materiale, diciamo, che non era stato dichiarato nelle dichiarazioni del mandatario della nave nella comunicazione precedente, e quindi ha cercato una soluzione di mediazione. I portuali della CGL, della Silt CGL, hanno chiesto di che quel materiale venisse allontanato dal terminal e non fosse imbarcato sulla nave che è diretta a Jeddah, dove poteva essere poi utilizzato nella guerra in Yemen. A quel punto, convenute tutte le parti, si è trovato questo accordo, quindi d'accordo il terminalista, d'accordo il presidente dell'autorità portuale, d'accordo il prefetto, d'accordo il sindacato, possiamo dire che i portuali di Genova hanno sostanzialmente impedito il carico di armi sulla Bari Jeddah. Con un po' d'orgoglio possiamo dire che oggi il nostro porto è stato aperto ai migranti, è stato chiuso, no, alle armi e alle guerre. Bene, una vittoria quindi, e si caricherà comunque a questo punto il materiale civile, diciamo, se non mi sbaglio, mentre della parte... Beh, certo, la parte noi abbiamo, dal punto di vista dell'azione sindacale, prevedevamo soltanto il boicottaggio del materiale militare, insomma, non del militare civile, che non è in nessun modo attinente con le vicende di guerra, insomma. Certo, e invece per quanto riguarda il materiale militare, a questo punto verrà trasportato via terra? È stato trasferito dal terminal via terra in un magazzino dove... nelle prossime ore sarà trasferito via terra, non sappiamo verso quali posti o quali altri porti possano essere poi riprendere il suo cammino che abbiamo interrotto a Genova. A oggi è un segnale, non è una, come dire, una vittoria definitiva dei portuali in Italia, ma è un piccolo gesto di solidarietà che speriamo possa trovare in qualche modo riscontro anche in altri porti italiani. Benissimo, un'ultima domanda, visto che appunto si è formata anche un'alleanza, diciamo, in questa prima giornata con molte realtà che hanno preso parte al presidio, ti chiederei anche se, diciamo, prevedete anche in futuro, nel caso ci fossero altri tentativi di questo tipo, si ripresentasse questa situazione, di riproporre lo sciopero. Oggi il presidio di oggi e la presenza delle mobilitazioni che c'è stata in questa settimana, così come le assemblee che hanno preparato questa giornata, dimostrano che a Genova c'è ancora una volontà che, tra l'altro, in una città in cui si è attenta ai soldi storicamente, si è in grado di per un giorno di mettere da parte il valore dei soldi per pensare prima al valore delle persone. Quindi non escludiamo che possa ripetersi nelle prossime settimane se ci fosse ancora un carico sospetto.